Miti e verità dello sport di Dario Ricci. Tempo di triplete, cioè la conquista di titolo e coppa nazionale più una coppa internazionale. Nel calcio c'è chi lo ha fatto, chi lo sogna, chi lo accarezza, chi, una volta sfuggito, lo maledice. Ma proprio 30 anni fa, sul parquet di basket, c'è stata una squadra che il triplete lo realizzò, lasciando un'impronta indelebile nello sport italiano e mondiale. Il tutto in appena un mese, tra il 26 marzo e il 25 aprile del 1987. Quella squadra era l'Olimpia Milano, sponsorizzata Tracer, guidata in panchina dal leggendario Dan Peterson e con in campo campioni come D'Antoni, Meneghin, McAdoo, Premier, ma anche talenti emergenti e stranieri sorprendenti come Ken Barlow. E questa è la storia che riviviamo oggi a Olimpia, a partire proprio dal 26 marzo del 1987, quando a Bologna Milano affronta la Scavolini Pesaro nella finale di Coppa Italia. Zampolini, perché Costa ha 4 falli a carico, ecco che è andato a realizzare la Scavolini, 60 a 45 in questo momento, grande primo tempo di Davis nelle fine della Scavolini. I milanesi di Peterson incrociano i pesaresi di Valerio Bianchini, il vate del nostro basket, l'alter ego e grande rivale del tecnico americano, anche e soprattutto sotto il profilo della comunicazione. Andrea Gracis, che quel giorno era in campo, playmaker della Scavolini. Milano è sempre stata per noi giocatori un mito da riuscire a cercare di battere, perché era la squadra che dominava in quegli anni, e per noi pesaresi o squadra di Pesaro, cercare come piccola città di battere la corazzata Milano era sempre un punto di riferimento, un obiettivo difficile da raggiungere, però molto stimolante. Bianchini, che già aveva portato al tricolore Cantù e Roma, era stato abile ad accendere lo spirito di rivalsa dei marchigiani. Bianchini aveva coinvolto tutta una città, tutto un popolo a Pesaro. Era il Davide contro il Golia, ecco, era la grande forza di Milano e la piccola Pesaro, e ci aveva incaricati di questa missione debole che batte il più forte, quindi aveva caricato la piazza e noi giocatori di questa missione. Sull'altra panchina Peterson però non era da meno, ancora Gracis. Peterson e Bianchini hanno dato vita a tantissime sfide, oltre che sul campo anche sui giornali, nei pre-partita, nei post-partita, quindi due grandi allenatori che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana. Battaglia mediatica quindi quella tra Pesaro e Milano, ma vera battaglia cestistica in campo. Gracis ad esempio deve vedersela in regia con quel fenomeno di Mike D'Antoni. Giocare contro Mike D'Antoni era sempre affascinante, perché era un giocatore oltremodo difficile da marcare per le sue qualità, per la sua intelligenza e per la tensione che ti metteva, soprattutto per l'attenzione e la concentrazione che dovevi avere per non perdere palloni, perché era considerato l'arsenal effettivamente della nostra pallacanestro, e ti metteva grandissima pressione con le mani velocissime, ti costringeva a un'attenzione dal primo all'ultimo secondo della partita. Ai milanesi non andava meglio però, basti pensare che sotto canestro Dino Meneghin trovava avversari come Ario Costa e Walter Magnifico, coi quali condivideva anche la maglia della nazionale. Sono due persone con cui, dico persone prima di giocatore, perché sono due persone fantastiche, ho avuto la fortuna poi di frequentarli anche un po' fuori dall'ambito della competizione. Sono due che poi hanno ritrovato il loro spazio anche fuori dal gioco, e come giocatori chiaramente non si discutevano. Ario Costa era un pivot solido, tenace, tecnico, buon difensore, rimbalzista, e Walter Magnifico era un power forward, cioè un giocatore che poteva giocare sia nella forte che sotto canestro, dotato di un gran tiro, e tutti e due dotati di grandissimo carattere agonistico, quindi due avversari tosti, come si dice, no? Costa, metà campo, smista, d'attacco sempre pesarese, ancora Zampolini, dalla grandissima distanza, tre punti, sono i tre punti che riportano sotto la Scavolini è a due punti di ritardo. Tra prodezze e sgomitate, Milano riesce a portare a casa il trofeo in volata, 95 a 93. Ma per i lombardi c'è poco tempo per festeggiare. Neppure una settimana dopo, infatti, il 2 aprile del 1987, sono nella gelida palestra di Losanna a contendere agli israeliani del Maccabi Tel Aviv la Coppa dei Campioni. Deve saltare Meneghin, che non ha la possibilità di andare in elevazione, però è Meneghin che ha conquistato la palla, è Meneghin che ha conquistato palla, c'è un fallo adesso su Boselli, c'è un fallo, deve liberarsi la palla, Meneghin ha sbagliato, Meneghin, l'incredibile situazione. Davvero ossi duri gli israeliani, soprattutto considerando che la Tracer arriva all'ultimo atto della Coppa con un Meneghin in difficili condizioni fisiche. Sì, purtroppo nella settimana prima della finale mi è venuto uno stiramento alla gamba e questo prima di tutto mi ha fatto quasi svenire, perché diciamo, cacchio, proprio adesso che siamo alla fine mi viene questo problema. Poi invece grazie a un'iniezione di antidolorifico, chiamiamolo così, fatta dal dottore, sono riuscito a scendere in campo senza essere al 100%, però c'era, questo per me era già sufficiente. Poi alla fine, per fortuna, abbiamo vinto, quindi tutti i sacrifici sono stati ripagati anche in questo. Berkowitz, Giamci, Johnson e McGee, alcuni degli assi tra i gialloblu, vero simbolo di Israele. Maccabi è una squadra che ha dominato i campionati gli israeliani per tantissimo tempo, era fatta anche lì di grandi campioni. Io avversario diretto questo Kevin McGee che era come un armadio, non molto alto ma tosto fisicamente, forte, tecnico, per cui è stata veramente una battaglia fisica oltre che tecnica. Però la squadra di Maccabi era fatta proprio di grandi giocatori, e quando Maccabi gioca in qualsiasi parte del mondo, d'Europa eccetera, ha al seguito tantissimi tifosi. E mi ricordo proprio la marea gialla dei tifosi del Maccabi alla finale, veramente commovente. I tiri decisivi di piazza Roberto Premier. Bob McAdoo ci mette una ventina di punti, ma alcune giocate chiave arrivano anche da un diciottenne che gara dopo gara comincia a conquistare spazio e minuti di gioco tra tanti campioni. Riccardo Pittis. Ho giocato anche dei minuti in quella finale, quindi potete immaginare quale fosse l'emozione. Ricordo ancora che veramente, al di là del freddo che si pativa in quella palestra a Losanna, perché il parquet era direttamente steso sopra al campo da hockey della città svizzera, però al di là di quei brividi, la grande emozione provocava la tremarella vera, perché a 18 anni appena compiuti entrare in campo in una partita così importante è stata un'emozione incredibile. Ricordo di quella partita soprattutto una stoppata a Miki Berkowitz in quei pochi minuti che sono stati in campo, ma per me era come aver segnato 20 punti. Meneghin doppica vistosamente, si era liberato, ha tirato troppo pesantemente e è ancora una situazione che può diventare drammatica. 4-2 secondi, prende la palla. Alla sirena finale esplode la gioia dei tifosi milanesi. Milano è di nuovo campione d'Europa e quel ragazzino, Pittis, che bene ha fatto contro i mostri sacri israeliani, tornerà ancora più decisivo pochi giorni dopo nelle sfide che assegneranno il tricolore. Beh, la storia comincia a farsi ancora più interessante. Allora, prendiamoci ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia, la città dello sport. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Olimpia, miti e verità dello sport. Mancano 7 secondi, vediamo, forse il pallone è per Donadoni, vediamo che è per lui. Tira Gentile, è il Tracer, è campione d'Italia. 3-0 alla Mobil Cinci, l'entusiasmo del pubblico milanese, ma gli onori, bisogna dire, delle armi alla formazione campana che si è battuta in maniera strepitosa, mentre vedete il 23esimo scudetto che appare sul teleschermo a fregiare le maglie milanesi. È il 25 aprile 1987. Al Pala Trussardi di Milano la Tracer Philips Milano batte la Mobil Girgi Caserta in gara 3 della finale scudetto per 84-82 e conquista il terzo titolo consecutivo, completando così, dopo i successi in Coppa Italia contro la Scavolini Pesaro e in Coppa Campioni contro il Maccabi Tel Aviv, uno straordinario triplete. Incredibile l'epilogo della partita decisiva. Milano va sotto anche di 19 punti e subisce i tiri letali del brasiliano Oscar e la talentuosa regia del giovane Nando Gentile. Ma un altro talento, già decisivo nella campagna europea, esplode in tutta la sua classe. Riccardo Pittis, che trascina Milano alla rimonta. Il flash che mi rimane sono stati i ringraziamenti, e sottolineo non incitamenti, ma ringraziamenti di giocatori che avevano vinto e vinsero ancora tanto nella carriera a quel ragazzino che aveva fatto effettivamente una partita inaspettata. Mi rimane impresso il 5 a Meneghin e ad Antoni poco appena finito il primo tempo, dopo che avevo recuperato un pallone allo scadere e segnato da 3 punti, mandando le squadre molto più vicine nel punteggio, cosa che poi ha permesso a Milano di recuperare tutto nel secondo tempo e arrivare a vincere lo scudetto. Bravo, era stato coach Peterson a inserire gradualmente nel corso della stagione Pittis tra tante stelle. Il coach ebbe il grande pregio, assieme a Franco Casalini e a tutti i miei compagni di squadra, di non aver paura di buttarmi in campo e nella mischia fin da subito, fermo restando che non lo fece a sproposito, ma lo fece gradualmente, senza farmi bruciare le tappe. Il mio inserimento cominciava da prima in allenamento, poco alla volta venivo gestito un pochino di più assieme al gruppo dei titolari, per poi arrivare piano piano anche in partita, dopo avermi fatto un passaggio graduale di esperienze, arrivare a culminare con le ultime partite dei playoff, dove ha avuto il coraggio, se non addirittura la sfrontatezza, di farmi giocare tanti minuti, peraltro tanti minuti importanti. E bravi anche quei campioni a farne emergere le qualità di questo ragazzotto, senza pregiudizi. I problemi me li creavo più io, perché invece i grandi campioni che c'erano dentro quello spogliatoio erano campioni anche perché non mettevano assolutamente barriere. L'accoglienza è stata immediatamente ottima, non c'è stato nessuna matricola, diciamo, da pagare, e quindi è stata l'esperienza, oltre che più bella, più importante di tutta la mia vita, perché da quella esperienza ho tratto poi tutti gli insegnamenti che mi sono serviti nel prosieguo della mia carriera. Tra tanti fenomeni in squadra, dicevamo, due in particolare i punti di riferimento per il giovane Pittis. Erano i miei idoli da bambino, andavo a vederli e quindi già cercavo di catturare, di rubare qualche segreto dagli spalti. Averli a disposizione in allenamento tutti i giorni e in qualsiasi momento della giornata era veramente un sogno realizzato. Io posso definire i miei genitori cestistici, non me ne vogliono gli altri, anche perché da tutti ho imparato qualcosa, ma da loro due in particolare, e i due sono soprattutto Mike D'Antoni e Dino Meneghin. Stima, d'altra parte, ricambiata dal grande Dino. Sì, Ricky entrò in campo in un momento difficile, proprio di quella partita di finale, in cui noi non giocavamo assolutamente bene. Caserta stava veramente giocando in maniera pazzesca, e noi eravamo sotto e Ricky, vuoi per la bravura, vuoi per l'incoscienza giovanile, eccetera, eccetera, ha sparato lì 3 o 4 tiri che ci ha riportato in linea di galleggiamento, cosa che ha permesso alla squadra di superare quel momento critico e poi alla fine di vincere. Quindi Ricky, anche in età giovanissima, come diceva lei giustamente, aveva già dimostrato di avere un grandissimo carattere e una forza interiore, cosa che ha dimostrato poi negli anni a seguire. Ma la stessa stima Meneghin la ha ancora oggi per il campione più emblematico, più rappresentativo di quella Caserta. Beh, Oscar è anche qui prima di tutto una grandissima persona, poi è stato un giocatore micidiale perché era un tiratore fantastico. Mi ricordava un po' il Bob Morse degli anni 70 che giocava a Varese con me. E lui un giorno mi faceva morire da ridere perché da buon brasiliano era simpaticissimo, è simpaticissimo. E mi ha detto, Dino, oggi vedevo il canestro come una vasca da bagno. Cioè, questo vuol dire che i grandi tiratori, quando sono in trance agonistico, non li fermi, cerchi di limitarli, ma assolutamente annullarli è impossibile. E Oscar è stato uno dei più grandi giocatori che abbiamo calcato i campi italiani o mondiali, anche perché lui è un giocatore che è nella Hall of Fame a Springfield, questo a riconoscere proprio il suo estremo valore a livello mondiale. Capitolo a parte merita Bob McAdoo, asso NBA sbarcato a Milano con ancora intatta la fame di vittoria. Bob, mi ricordo che era arrivato a giocare la prima volta che era venuto qui in Italia, a Milano a giocare. Tutti quanti pensavano che fosse un campione venuto in Italia a svernare, a fare un anno, a prendere un po' di soldi e poi tornare a casa. Invece fin dalle prime giornate di allenamento ha dimostrato che lui ci teneva a vincere, non voleva assolutamente fare brutta figura ed aveva alzato il livello tecnico e fisico della nostra squadra ed era diventato proprio la punta di diamante di una squadra costruita bene, fatta bene, che stava bene e giocava bene assieme. Però lui giocava in allenamento, si allenava come giocava la partita, quindi con una grandissima intensità. E questo voleva dire che tutti quanti si dovevano impegnare di più per stare al suo livello, cercare di stare al suo livello. È stato poi intanto a giocare a Forlì, ha sposato un'italiana con cui ha avuto dei figli, per cui l'attaccamento di questo giocatore ai colori di Milano, poi comunque è legato anche a quello che è l'Italia in se stessa. E quindi quando ci incontriamo parliamo ancora chiaramente come da vecchi rimbambiti, parliamo di vecchi di ricordi, ma lui lo vedo la luce nei suoi occhi, della soddisfazione, della gioia che ha provato a giocare a Milano e poi chiaramente anche qui in Italia. Tira Gentile, è il Thrasher, è campione d'Italia, 3-0 alla Mobil Cinci, l'entusiasmo del pubblico milanese. Caserta sfiora allora per la seconda volta consecutiva quel titolo che arriverà poi proprio contro Milano e dopo aver dato l'addio ad Oscar Schmidt ceduto solo nel 1991. Nando Gentile. Eravamo una squadra, una società giovane, costruita soprattutto su ragazzi locali cresciuti nella società della Juve Caserta e ci siamo affacciati a questo mondo del grande basket piano piano, e arrivando in finale nell'87 proprio contro l'Inter Milano, ma noi eravamo arrivati lì già un grandissimo risultato. E poi dall'altra parte c'era la grande Olimpia con i grandi giocatori, D'Antoni, Meneghini e tutto il resto. E per noi fu il primo approccio a questa grande competizione che era la finale scudetto. Fenomeni, certo, i milanesi, e dove non arrivava la classe ci pensava il talento anche nel dialogare con i fischietti, lascia intendere l'allora play casertano. Ci furono un paio di fischiate arbitrali che erano un po' strane, però ci stava, onestamente noi eravamo giovani, eravamo ragazzini, io, Esposito, Dell'Agnello e il resto, tutti i ragazzini della società di Caserta, e facemmo nonostante la sconfitta veramente una stagione unica. Oggi, a 30 anni da quel triplete, quale eredità ha lasciato quella Milano dei fenomeni? Riccardo Pittis prova a trovare la morale di questa splendida favola cestistica. Nell'immaginario collettivo forse quella era la squadra per eccellenza, un po' come in tutti gli sport c'è sempre una squadra di riferimento, penso alla grande Inter per quanto riguarda il calcio, piuttosto che al Milan di Sacchi, piuttosto che alla nazionale per la pallavolo, insomma c'è una squadra simbolo che lascia nell'immaginario collettivo un ricordo più forte delle altre. Ecco, forse questo ha lasciato come eredità l'Olimpia, quello di essere una squadra punto di riferimento per tante squadre che ci sono state dopo, che magari hanno raggiunto degli importantissimi risultati, penso alla Virtus di Messina che comunque ha vinto il triplete, piuttosto che la Benetton di Treviso dove ho avuto la fortuna di giocare, ma mai credo come quella Olimpia Thrasher Milano che nell'86-87 vinse quel triplete. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.